micro scarichette. Ho scappellato. Cosa c'è già? Cosa c'è? Sicuramente sta. Oh Lu, ciao, cercando di mettere a posto il PTT dell'MB più 5. Ma, scusa un attimo, ma se qua l'altro baracchino esce, non è un problema di PTT. E Lu, a me pare impossibile però, cioè se è un problema di mic dovrebbe farlo su tutti e due gli apparecchi, poi tutto lo vedere, mi, tutto è possibile. Infatti. Aspetta un attimo. Io, fate, io sto pulendo la stufa che mi è arrivata la bombola, che è ferma un anno, è tutta impolverata. A dopo. Ancora con la bombola, sì, buonasera. Dieta ridotto. Eia, tutto ci butto, mi sa che mi attacco a Medea. Facciamo il contratto, abbiamo tutto. Ciao Claudio, ben entrato. Ciao, ciao a tutti. Ciao Claudio, buonasera. Ciao, merito il microfono, ma ci ha fatto l'aria. No, non sono riuscito ancora a capire il problema, quale sia. Corretto, già nei piedi mi devi dare il baracchino, che non funziona, il microfono. E poi vedi che mi appento io. Sì, vabbè, ma futtetini, ne ho tanti di casa, aspetta, mi abbasso questo qua. Così bene va Claudio. Eia, non capisco perché quando muovi il potenziometro fa non lo so, però questo qua è l'altro, dai. Ah, non è quello di tavola. No, questo qua è la static. Eia, no, funziona benissimo, lasciare quello. Cavagala. E mi sto ascoltando. Aspetta che lo passo un altro. Prova 1, 2, 3, prova. Così dovrebbe essere di lusso. Va bene, no, cioè, a me piace modulazione di forti. Va bene così, andava bene anche prima. Vabbè, non si negava bene sul microfono. Ehi, già un po' di pazienza ci vuole. Io ti capisco perché guarda, io a mettere mano sui microfoni proprio mi viene l'ansia. Mi viene l'ansia. A me me l'ha fatto Luca l'altra volta. No, non ne ho voglia. Però ci vuole un po' di pazienza, capito? Quello io ti ripeto, il mio faceva lo stesso difetto. Non per dire che tu non riesci a farlo, ma dico, il mio faceva lo stesso difetto. Ho fatto quel lavoro lì e funziona perfettamente. Il problema è che tu però lo metti su un'altra radio e funziona. E lì l'inghippo. Registrato un attimino. Entra. È così, dai. Il problema è che praticamente io quello che mi hai detto tu l'ho fatto e lo fa lo stesso. Avanti, break. Mi devo mettere gli occhiali, un attimo. Segnale da me 5. 5 di segnale, di radio vai bene, vai una radio 5 normale però. Prego, là. Se me la puoi mandare da vedere così mi faccio una cultura anch'io. Venga, dai, ciao, ci sentiamo, dai, buon Corrix, noi siamo qua. Avanti, qua. Ciao Claudio, ciao. Sentiamo per la radio 5 qua, ottima la modulazione, va bene. Ehi già, non è che sono molto in forma, sono un po' mezzo influenzato e ho chiesto adesso, sto solo in attesa di fare il tampone, ce me lo fanno. Questo un attimo solo, a quanto ce l'hai la febbre? 37,5. Sì, roba di influenza allora, avanti il permesso. Buonasera Gianni, buonasera Claudio. Stavo di passaggio, dunque chiedo un controllino a me, sto dove sto andando, perché sto cercando Marino. Avanti Gianni, Battista, cosa parte? Sì, dove c'è 9.30, Battista, 9.30 Radio 5. Da Claudio dove c'è più basso? Beh, da me c'è più lontano, ma non è che ti allontani molto, c'è 9.20 Radio 5, Battista, ciao, buonasera. Ciao Claudio, buonasera. Scusate il disturbo, continuo a cercare Marino e fare il mio lavoretto che stavo costruendo. Bene, a dopo, ciao Gianni, ciao Claudio, buona serata ancora. Nessun disturbo, Bacchisio, quando ti servono canarini dimmelo che ne ho una gelata. Ah, covato hanno? Ehi, no, ma ne ho già di per sé, ne avevo da prima, ti colorati e ti bevi. Vabbè, se ci vediamo già ne parliamo, va. Già, in questo periodo in campagna non sto andando perché ho avuto un colpo di grazia. Dunque non ci posso scendere, non guido e nulla. Appena che mi riprendo ne parliamo. E cosa ti è successo, Bacchi? Cos'è successo? La vecchiaia. Fratture. Vabbè, dai. Già passa anche quello. Va bene, Marchisio, ti saluto, dai. Avanti. Avanti, Claudio. Ciao Bacchino, siamo qua, vai. C'era anche Luca, Maico, Luci, c'era Marco. Marco già lo sai che adesso va a pranzare. La sua ora di pranzo. Adesso sto togliendo il microfono dal Galaxy e ci sto mettendo le BB più 5, vuol dire che prova, se li funziona è un mistero veramente quel microfono, non so che ti adesso sono, aspetta che spengo la radio, adesso sono con l'MB più 5 e sto parlando dal Galaxy. Sta uscendo, però è gracchiante la modulazione, si sente c'ha qualcosa col microfono già, non è la radio, secondo me ha qualcosa col microfono. Ora ricontrollo la capsula, ma ho controllato tutto, va, te la ricontrollo, va. Non stai uscendo bene come uscivi prima, è tutto a scarica, hai capito? Quindi secondo me c'è qualcosa che non va con il microfono, magari lì ti fa uscire, però nell'altro si blocca, hai capito, del tutto già, però non è un problema di, è un problema di microfono. E metterlo da parte perché non si capisce niente. Adesso sta andando bene. Sì, adesso sta andando bene. Chiaro lì, questo qua è il coso, è saletta, Master Plus. Questo me l'ha fatto Stefano, nuovo. E io mi avevo dato le BB più 5. Tutti e due nuovissimi erano, cazzo. E ne ho 4 dei BB più 5. Tutti nuovi. Non so, è un po' più vecchiotto come sta, ma nuovo di esteticamente, che avevo preso oggi di Vulcano, gli altri li ho comprati nuovi per mettere ognuno a ogni radio vintage, capito? Vabbè, no, già funzionano bene, funzionano benissimo, la grande, non c'è problema. Sì, Saletta ce l'avevo anch'io, l'ho volato a Giulio con l'HB23, cazzo, lì si è rotto il coso del PTT, non riesce a trovarlo, vabbè. Quindi dici che, sì, infatti mi ho preso la tachipirina, ne ho preso una stamattina a colazione, una l'ho presa a pranzo, insomma la prendo stanotte. Un po' sto meglio, anche stamattina mi sono alzato per la pizza. E anche il cambiamento di tempo, adesso noi pensiamo sempre al coronavirus, ma è meglio che ti fa controllare, però in effetti molta gente c'è anche l'influenza, perché è un miscuglio, no? Adesso credo che ti veda anche l'influenza, quindi non capisci se uno se l'ha. Ma sicuramente anche preso freddo, perché quando è che ha fatto la bella giornata? Sono uscito in moto, è domenica, oggi è martedì, domenica sono uscito in moto, capite? Quindi sicuramente è quello. Mi sembrava ci fosse caldo, ma magari ho preso un po' di freddo. Siamo andati a fare un giro verso Alghero Bosa, sono entrato anche tardi, quindi magari ho preso un po' di freddo, un po' di umidità. Infatti ho iniziato da ieri, che era un po' così, e stamattina, caput. Ohia, con la strada lì è micidiale, già che non tagliate di arrivata anch'io. Con le curve che ci sono lì, ohia, sono speranza lì. Io già farò piano, ti preoccupare, non ce n'è problema. Già vado piano, poi ho il mio genero, quindi non ce n'è problema. Non è che ci mettiamo a correre, così a fare una passeggiata, a fare una passeggiatina, eravamo in due qui. Era un fastidio al naso, cazzo, il naso che me la fastidia. Prende alla gola, al naso, è una cosa malotta, ma adesso il sindaco si è detto cosa è. Questa settimana, se vede che ci sono contagi, zona rossa. Non vicino di lui, non la zona rossa. Ma non la decide lui la zona rossa, decide il presidente della regione, ma a parte il fatto che prima con la rossa c'è l'arancione, noi siamo ancora in zona gialla, quindi non si crei problemi lui, non si faccia le seghe mentali, che se rinchiuda lui dentro casa, che vuole rinchiuso lui, che c'è la città che fa schifo. Ieri abbiamo fatto avanti riunione al comitato di quartiere, abbiamo fatto una sposta alla Procura della Repubblica, c'è una puzza che ci sono i cassonetti che non si può fare, tutti i santi giorni, tutta roba per terra, buste per terra, mondetta, di tutto e di più, in tutta la linea dei cassonetti, ce ne sono 6 dove c'è l'edicola, 6 dove ci sono io e 6 dove sono le case popolari, una cosa allucinante, i marciapiedi che fanno schifo, non si può passare dai rami dell'erba che esce dalle cunette, cioè un quartiere che sta diventando schifoso, veramente. Perché le periferie le dimenticano, invece da noi stanno valorizzando tutto, stanno facendo tutto l'asfalto nelle strade, naturalmente quell'asfalto che ti mangiano con un vecchio e poi con quello vecchio lo riciclano e fanno l'asfalto nuovo, ma esce bene lo stesso, esce un bel lavoro. E stanno facendo tutta la segnaletica stradale, hanno fatto piste ciclabili, hanno fatto la segnaletica e tutto quanto. La nostra è tenuta bene. Già, sto parlando di strada, hanno asfaltato tutto, da via Follarini, via Vannabascio, via Mesi, via Carbonati, via, è tutto asfaltato, le strade sono tutte asfaltate, è la pulizia che manca, è la pulizia, è uno schifo, capito? Uno schifo. Infatti stamattina c'erano due del comune che stavano guardando con la panda, quelli della cosa, non lo so cosa sono, forse dell'autoparco, e stavano facendo le fotografie, perché sicuramente è già arrivato lo sport, è una cosa allucinante, con le strade non ci possiamo lamentare, hanno asfaltato tutto via La Malfa, verso le scuole, sino a su, via Forlanini, via Vannabascio, via Carbonati, tutto. È la pulizia che manca, quindi servono mettere in testa di mettere un operatore ecologico fisso e fare la pulizia che necessita, non passare una volta alla settimana. Quello già è vero, anche in via Bonorba si riempiono i cassonetti all'inverosimile, praticamente buttano tutte le buste in terra, poi ci vanno gatti, cani a mangiare, tutto qua. Adesso hanno fatto mettere altri, quello del comitato in quartiere ha fatto mettere altri 3 cassonetti vicino alla chiesa dei Mormoni, e la cosa si sta un po' dividendo, però ho notato che ci sono, quando vanno a portare il cane, ho visto più di una volta gente con i carrelli attaccati alla macchina tutta piena di mondezza, e ci butta un carrello di mondezza di quelli di campagna, no? Che ci butta di tutto e di più, a fianco al cassonetto di cui mettono ferro, tutto grande. Fanno qua, capite? Con la scusa che ci sono i cassonetti, uno per la carta, uno per quello, capite? Vengono dalle campagne, anche dai paesi vengono, secondo me, perché l'altro giorno c'era una macchina in fuoristrada che io non ho mai visto qua nella zona, quindi sicuramente di fuori. E poi abbiamo chiesto di mettere le telecamere. Adesso vediamo, se no stavamo facendo le fotografie per quello, per vedere dove posizionare le telecamere, perché guarda, è uno schifo, uno schifo. Uno schifo, veramente uno schifo, come strade non ci possiamo lamentare, le piazze sono pulite, piazza Aldomoro, e lì dove c'è l'edicola, è tutto pulito, l'erba sempre tagliata, tutto a posto, manca la pulizia dei cassonetti, la pulizia vera e propria della nettezza urbana, quello manca, perché io sono mesi che non vedo un operatore ecologico. Deve essere che l'operatore, o c'è l'operatore di zona che non lavora bene, oppure non lo stanno mandando, le due sono le cose. Però lui, dopo quando vengono le malattie, cazzo ci lamentiamo. Quelle cose lì portano malattie, portano tuffi, portano di tutto e di più. Tutto di più, sto dicendo, è uno schifo veramente a vedere i cassonetti. Poi quando c'è caldo, avanti ieri che c'era caldo, domenica ha fatto la giornata splendida, c'era una puzza, tutto pieno di mosche, ma cazzo, ma buffone, diciamo, davvero. Subito abbiamo fatto chiamato il presidente del comitato di quartiere, che è un ex che lavorava in banca. Siamo scesi, è sceso con me, abbiamo fatto tutte le foto, tutto, è andato a casa, al computer, ha fatto una bella lettera, sentita in procura, per conoscenza al sindaco di Sassari e all'assessore all'igiene, perché così non si può fare, ma buffonendici. Cazzo, siamo 15.000 persone qua, non credo più ci sia, un quartiere a Tumusì. Se non battono i cassonetti ne mettono altri, e se no vigilano un po' di più, cioè che mettano un controllore a controllare veramente se l'apparato ecologico pulisce. Ma io ti ripeto, sono mesi che non lo vedo. Quelli che passano con la panda sono quelli che controllano praticamente l'operato degli operatori ecologici, guardano sempre se hanno lavorato bene eccetera, se ci sono immondizie in giro eccetera eccetera, fanno le fotografie e poi se si nega dico guarda, te l'ho fotografato qua, guarda come, capito, fanno queste cose. Quindi dovrebbero sapere il comune com'è la situazione. Io per dire la Tenoce non fa passarci perché le strade sono tutte a buche, tutte a buchi, ne scalpi uno, ne prendi altri due, ma non buche piccole, buche grosse. Con la strada molto tariffata, non è possibile. Dove abita Gio Maria lì di fronte, tutto quanto messo male lì l'asfalto. Dove abita Gio Maria? Ci sono andato da Lucca lì, dove c'è la ragazza che ha il mondo sky, a parte le strade, ma proprio lì nel circondario, tutto bene nel mondo est, tutta roba abbandonata, tramazzi, reti, scaldabagni, secondo me non ci vergogna, cioè le tasse le paghiamo, capito? Cioè quando arriva a Tari sono colpi di soldi che il comune incassa da ogni cittadino per la mettezza urbana. E cosa cazzo stiamo pagando? La busta della mondezza che buttiamo nel cassonetto dei rifiuti di casa e le strade non le pulisci. Sì, vabbè, ma per quanto riguarda i rifiuti ingombranti c'è un numero che bisogna chiamare. Molta gente li butta così, Claudio, non è giusto. Io quando devo buttare qualcosa di grosso, da poco ho buttato un tappeto persiano che non mi piaceva più e l'ho buttato via. Era grande, enorme, mi ha detto di avvolgerlo tutto, non deve essere più di 2 metri lungo, e praticamente me l'ha fatto tutto avvolgere, regare con lo spago e attaccarci il numero e metterlo a fianco al portone. Domani mattina sono uscito e non c'era più. Io guarda, martedì scorso ho staccato la porta in legno, c'era cioè una porta in legno a soffietto nel salone con i vetri stile veneziano e Filippo l'ha rotta, è passato in mezzo l'anno scorso, l'ho tolta piano piano, era pesante perché il legno buono, pesante, l'ho fatta in due e l'ho portata a piazzare il segno, l'ho caricata in macchina, figurati col cofano aperto perché non ci stava, l'ho caricata in macchina, sono andato a piazzare il segno, martedì mattina l'ho consegnata lì. Quindi invece molta gente abbandona tutto nei cassonetti, come che sia a casa sua, capito? E vabbè, io spero che mettano le telecamere, se no adesso vigiliamo un po' di più. Lo primo che vedo è la fotografia alla targa e la porto al comando dei vigili urbani, poi ci facciamo due risate. Dovrebbe essere sempre l'educazione della persona. Se uno è caffone che vive in campagna, molta gente in campagna la brucia la roba, per dire, io ho amici che quando mangiamo in campagna butta tutto dentro il cammino, fa bruciare, non plastica, però la brucia delle arance, le ossa, tutto quanto nel cammino, fa di bruciare. Ma siccome c'è gente intelligente, gente malata di testa, allora già avete nicchia, non lo so. Adesso noi abbiamo fatto questa segnalazione, vediamo come si comportano, perché il quartiere è schifoso, non c'è pulizia strade, marciapiedi, queste cose così. È un asfaltato in Nata Rubingo praticamente. Vabbè, Marco ci sei? Cappa, scusate, io stavo ascoltando messaggi su WhatsApp. Vabbè, quello che devo fare, ho pulito la stufa, tutto attivata, funziona, perché all'inizio, dopo un anno che ferma, prima che arrivi il gas al bruciatore, uia, quindi è un'altra cosa approntata, dai. Però sono, non sto ascoltando, dai. Vi lancio Gianni, ma questa cosa comunque del mais, dell'MBP5, è possibile che siano un problema di impedenza, però cioè, il problema di impedenza non fa uscire a scariche, cioè non è che esci un attimo esci e l'altro no, capito? Lì è questione di scariche, di PTT, poi non lo so, tutto è possibile. Vai Gianni. Io ho provato Marco, l'ho soffiato, gli ho messo lo spray, l'altra volta era il PTT, faceva lo stesso difetto ed era il PTT, gli ho messo un po' di coso, di svitolo e praticamente è ripartito tranquillamente. Adesso lo state facendo, ma deve essere il PTT, raschia così, è sempre il PTT. O è quello il potenziometro del volume? Ma io ho provato a girare il potenziometro e lo faccio su rumore. Oh già, ma ce l'hai da molto, non è in garanzia? Cioè, quello che vuoi sapere, non esistono ricambi per questi microfoni. Non si trova un volgare PTT, quello da saldare internamente, no? No, già ce l'ho io qualche PTT, adesso guardo qualche tiriniccia, secondo come voglio lo cambio. Alla fine mi rompo le balle di cambio PTT. Bisogna avere quanti tirini hai, io ce li ho 6 tirini. Vabbè, ma si cattura quando cominciano così i microfoni miei, quando la prendono in do e non si riesce ad arrivare là, al coso. Boh. Io ne ho uno vacante che non uso più perché non c'ho spazio qua, lo devo mettere sul bracciolo, rischia di cadere, tutto lì, se non lo useri pure. Vai Claudio, vi prendete che vado in cucina adesso, inizio a fare le cose solite, dai, vi ascolto, ciao, a dopo. Ciao Marco, ci sentiamo, e vabbè, io gli lascio quello che viene a tutti, cioè, va bene lo stesso. Comunque, secondo me, l'unica cosa è il PT, non si sono si consumato, che cacchio ho messo, qualche cosa è successo, perché l'altra volta abbiamo messo il cilindro e è ripartito, l'ho soffiato con l'aria, questa volta l'aria l'avevo finita, l'ho soffiata a bocca. E allora, prova di nuovo, non lo so, io già tutto quello che mai detto, almeno l'ho fatto. Mentre ricordi, stavo modulando, si abbassava la radio, guarda quello lì, gli ho sfruttato il CRC, l'ho messo l'olio Singer, ho sfruttato lo spray per contatti, nulla da là. Poi mi sono rotto le balle, l'ho tenuto aperto, schiacciando il PTT con il microfono aperto, vedevo che toccava questo pomellino. Io non so se tu mi hai capito quale pomellino, magari mi hai tolto un altro e non quello, non lo so, perché a spiegartelo così viene male, capito? Dopodiché ha ripreso a funzionare, ti dico, è molto più morbido, la corsa la fa tutta, il microfono funziona magnificamente bene, capito già? Non lo so. Claudio, quello che ho capito io è quella specie di triangolino che c'è sotto il tasto. Io ho tagliato quello che c'era sotto al tasto. No, vedi che avevo mai capito. Non è quello lì, non lo devi toccare. Quello lì è la battuta che fa il coso. Non lo fa niente quello. Non lo fa niente. Sono quelli degli angoli di quella del coso grande, quello grigio, ti ho spiegato, no? Il pomellone grande dove tu appoggi la mano per calcare. C'è quello al centro che tu hai tagliato, che quello non serve a niente a toccarlo. Poi ce ne sono due piccolini, ti ho detto piccolini, che sono uno a un lato e uno all'altro dove mi appoggi la mano per pigiare il PTT, capito? Uno di quelli toccava al circuito stampato, alla punta del circuito stampato, e non faceva fare tutta la corsa, capito? Io me ne sono accorto tenendolo aperto il microfono, ti ho detto, a testa in giù e pigiando quel PT, il pomellone del PTT. Mi sono accorto che andava a toccare questa punta leggera. Allora ho spostato leggermente, ho mollato le quattro vittine del circuito stampato, ho tirato indietro il circuito stampato e praticamente toccava lo stesso. Allora l'ho limato, limandolo è diventato una cannonata. Questo tu dico c'è perché siccome tu quel microfono hai aperto un sacco di volte, se tu hai mollato quelle viti, le quattro vittine, e hai mandato troppo avanti il circuito stampato, infatti se prima funzionava, deve funzionare sempre, allora ti ho detto, la prima cosa che fai, molla le quattro vittine del circuito stampato e tiralo tutto indietro, cioè praticamente indietro il movimento della portante all'incontrario, e vedi se tocca, se non tocca il microfono deve funzionare, se tocca puntina che c'è all'angolo, non centrale, all'angolo, devi toglierla. Ma io puntina, guardate, non ce ne sono, l'unica cosa che c'è era quella. Non ne ho io puntine che dici tu, io l'ho smontato e non ce n'è. Ho guardato negli angoli e non c'era nessuna puntina. È liscio, normale, forse addirittura hanno dei difetti di fabbrica magari e si vedevano quelle, capito? Ma io non ne ho assolutamente, non ci sono nessuna puntina. Infatti ho tagliato quello lì e praticamente adesso va a fobide, è normale come dici tu, però anche il coso rimane di più, il tasto fisso del microfono rimane di più. No, secondo te non c'è, ma gli MB più 5 sono tutti uguali, vai tranquillo, io ne ho 5, compreso 4 normali, compreso uno che ho comprato con lettore Kenwood alimentato dalla radio, che ha fatto quello che tu conosci, nuovo la verità, l'ho comprato da un'altra persona, e quindi ne ho 5, e tutte e 5 sono uguali, è sempre quello, sempre la stessa casa, ti sto dicendo che ti è sfuggito, ma c'è, perché se quel microfono lo apro io davanti a te, ti faccio vedere qual è quello che tu devi togliere, il piolino, e il microfono funziona, vai tranquillo. Tranquillo, tutte queste scariche che sta facendo è perché le stai mettendo troppi prodotti, troppe cose, non metterle niente già. Quello vuole pulito nuovamente con la trienina, lì dove c'è, con la trienina, pennellino, trienina, smontato e tagliato quel cosettino lì e tu vedrai che il microfono funziona. Il microfono funziona, quando sali a Sassari o sei in giro dentro Sassari anche di mattina mi chiami, me lo vai. Adesso lo apriamo assieme e ti posso dire io che il microfono funziona, perché non è quello il pomellino che dovevi tagliare. Se però te lo vuoi fare tu, ti ho detto, te lo apri. Lo giri al senso contrario, praticamente la capsula te la metti a testa a terra, ok? Schiacci, tieni premuto il PTT e guarda se quando tu stai premendo il PTT intanto fa un movimento basculante, no? Tu guarda se al movimento finale l'angolo tocca al circuito stampato. Guarda, perché se l'angolo tocca al circuito stampato ed è proprio al limite, è quello lì il problema. Io quello l'ho tolto, quell'angolino l'ho limato e il microfono funziona perfettamente. Ego, mi devo affrettare a guardarlo bene. Secondo come va, domani li cambio il PTT, vediamo un pochettino se è questo. Non è quello, cazzo, stai facendo lavori inutili, non rifanno Uber, loro vini, poi le lampi di Udus. Ti ho detto che è quello lì. Ti ho detto, se sali a Sassari tu qualche giorno, che intanto io ce l'ho l'adattatore, non ho bisogno di radio. Se quello è connessione 3009 va bene col DAC. Ok, se non è connessione 3009 che è Midland, già c'ho l'adattatore. E ti faccio vedere che il microfono funziona, te lo faccio anche sentire. No Claudio, c'ha l'attacco Midland invertito, però quelli di sopra sotto e viceversa. Nel 2009? Esatto. Nel 2009 c'è l'attacco del DAC, uguale, preciso identico. Mentre il Helmet se c'è l'attacco del Midland, capito? Soia. Vabbè, non è che vuoi che ti dica. Non darci. Non lo so, va. L'altro giorno sono diventato scemo, prova, riprova, entra dentro, vai fuori, salda, fai, ho saldato dei fili che montandolo uno si è staccato, che ho dovuto attaccare il saldatore di nuovo, ui guarda, me ne esce di ragazzo. Io non so perché ci vuole un po' di pazienza. Sto dicendo, io ti ho dato l'input ed è quello, non c'è niente da fare, non c'è niente al microfono, perché se fai uno più uno, prima ha funzionato sempre bene, poi magari cosa è capitato, che l'hai aperto, non so, per fare qualche cosa, non lo so, e che tu l'hai aperto perché ti sei attaccato quegli affari del cacchio che c'ha, lì sicuramente tu quando poi sei andato a stringere hai mandato la piastra, il circuito stampato, troppo avanti e magari è dal giorno che non ha più funzionato, magari una coincidenza. coincidenza, non lo so, però è quello il problema. È quello il problema. Ti ho detto, quando vuoi me lo fai vedere, se no mi avvicino io e ti faccio vedere che cosa devi fare. Vedrai che il microfono funziona. No, io l'ultima volta che l'ho aperto perché faceva lo stesso difetto di adesso. L'ho aperto, gli ho messo lo spray per contatti, poi l'ho richiuso, e una volta che l'ho richiuso mi avete detto che andava bene. Quindi sto continuando a uscire per un bel po' di tempo, poi non l'ho più usato e ha fatto di nuovo lo stesso difetto. Ho provato a rimettergli CRC e tutto quanto e niente da fare. Non lo fa lo stesso, deve essere o che c'è polvere all'interno e vuole soffiata e non è bastato il succhio che gli ho fatto e bisogna comprare quelle bombolette di aria e soffiarlo con quello. Non lo so già, possiamo fare sino a domani parlando di questa cosa. Io ti sto dicendo, il mio era così, ho fatto quello e ho ripreso a funzionare magnificamente bene, anzi, meglio di prima, molto più leggero e tutto. Il lock non aggancia più, proprio fai col dittino, lo sposti e rimane agganciato, va bene, mentre prima c'era questo problema, capito? Non lo so, ma vedi tu, io ti ho detto se quando sei disponibile io ti faccio vedere che cosa devi fare, il microfono funziona, non lo impastare perché altrimenti lo devi tutto ripulire con la trenina, perché più olio ci metti, più roba ci metti e più si impatta la polvere e la vino funziona ben nulla. E già lo so, vuole soffiato prima di mettere gli spray, io devo sempre soffiato. Solo che questa volta l'ho finito. C'è una bomboletta, c'è la televisione, non c'era più. E allora ho soffiato la bocca, ma c'è un bel soffio e non è che... Quando soffio va alla grande, quindi... Ho soffiato bene e poi ho buttato lo spray, niente da fare. Vabbè, rinnova, cosa vuoi dire? Non lo so, io ho fatto quel lavoretto lì, l'ho richiuso subito, anche l'ho provato aperto, ho visto che era molto più morbido e tutto. Anzi, dentro l'armadio, perché i baracchini li ho tolti tutti, e ho detto sono passato dall'altra parte. Sull'altro lato, sull'altra base, una è completamente libera, cambiato cavi da sinistra a destra, tutto. Cioè, ma è molto più ordinato e ho messo le cose essenziali, quindi i baracchini li ho tolti tutti. Quando lo devo usare lo prendo e lo faccio. Sapevi che è morto il padre di Daniele, sì, mi sono eticato e mandato il messaggio. E chi Daniele? Daniele, quello di Viale Italia, morto il padre Stefano. Ah, oh, vero? Non ho saputo niente io, caro. Non ho saputo niente, quando è morto? Ieri mattina, quindi sei ancora in tempo a mandargli un messaggio di condoglianze. Ieri mattina mi ha avvisato. E di che cosa è morto? Non lo so già. Stavo male già da tempo e non c'entra niente questa pandemia, nulla. Stavo male già da tempo, l'ho allettato, quindi non lo so. Adesso lascio un po' tranquillo Daniele, poi magari ci sentiamo e me lo dice. Hai fatto male che me l'ha detto? Ieri l'ho mandato un messaggio a un po'. Mi è sfuggito di mente, tra l'altro che ieri ho proprio caputo. Infatti non sono entrato neanche in radio, niente, ero fuso. Infatti, vabbè, non è che si può andare a fare condoglianze, niente, perché è molto ristretta la cosa, quindi però mandagli un messaggio su WhatsApp. Comunque lo cerco perché non riesco a trovare. Aspetta, non lo so cercare. Cosa già, scusami, cosa hai detto? Su WhatsApp. Ah, vabbè, mandare un messaggio, non so, vieni un po'. Io stavo chattando ieri. Claudio, è sparito. Cosa? Ho detto, sparito, sì. No, non sentivo il beat, pensavo che era qualche altro. No, stavo facendo quel dovere, adesso l'ho fatto. E io fa piacere, ho detto un po' a tutti. L'ho detto solo a me, ma ho detto, vedi un po'. Mi sono dimenticato di mandarti un messaggio ieri. Vabbè, ma già, vabbè, lo stesso, c'è problema, tanto la noce funerà. Mi ha già risposto anche, mi ha scritto grazie. Sì, sì, sì. Mi dispiace proprio, mi dice, 2 anni in pensione direi. Già me lo ricordo, io l'avevo conosciuto a casa di Franco, California. Il padre di Daniele, l'ho conosciuto lì, frequentavo una casa di Franco. fa? Ehi, cos'è qua? Andiamo un po' di gioco con Stefano, eh? Facevamo spesso o i sabati, e i sabati soprattutto, più che le domeniche. Cene da lui, da Franco, da me, eravamo molto... Infatti sono andato anche a trovarlo a poco. Però non era molto messo bene, non l'è fatto, così quello ben teneva informato Daniele, qui siamo iniziati lo spinco, la mamma, non venuto io, sembra che si sia lasciato andare, se la vi. Adesso vediamo, infatti lo stava seguendo Daniele, non voleva partire più, tra il suo lavoro, sai che Daniele lavora al 118, tra il suo lavoro, poi a casa, sistemare il padre, fare, poi alla fine finalmente sono riusciti ad ottenere un'infermiera, ma per poco. E già lo so, Daniele, anche la moglie lavora lì, e pare che sia più la croce in bua adesso. No, Daniele è giù in via Venezia, ne parisce anche lì, non mi ricordo, ci sono tutte e due lì, sono uno da una parte e uno dall'altra, comunque erano ben sacrificati, però mi dispiace per te, Franci Picchia, ho fatto un altro messaggio anche a Franco, l'ha subito chiamato, e vabbè. Si vive, come si cresce, si vive, si muore. La benugava. La vita è quella, sa, cosa devi fare? Bisogna viverla bene quando si invita, poi pazienza. Quando si invita bisogna godersi. È inutile che fai sacrifici, fai questo, fai l'altro, mago. Bisogna divertirsi, si fanno bene quelli che si fanno i viaggi, che si divertono, che se ne vanno a ballare, che se... Quello è fare una bella vita, non starsene magari andare a mangiare la pizza una volta alla settimana e basta, più starsene a casa. E io ho amici che vanno a scuola di ballo, si divertono, capito? Conoscono gente nuova, ci fanno le cene, insomma. Vabbè, chi c'è un rifugio per catturare, sono tutti separati, per la scuola di ballo, guarda che sono tutte separate le donne. Sono iscritto il mese scorso io in palestra, stavo così bene, cazzo. Proprio stavo entrando in ottima forma perché ho dimagrito tanto e quindi dovevo un po' rassodare. Invece, allora mi attacco, per rottura di balle, cazzo. Lavorando 3 volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, lì alla Piazzale Segni, da Nicco. Il cognato di Andrea, e invece a pigliarla in culo. E prima c'era la mia via Grazia d'Alenda, la palestra, già me lo ricordo. Ehi, stavo qua da Dio, veramente, da Dio. Adesso sto facendo sul Massarda, c'è tutta l'attrezzatura, c'è il tapiro là, che ho messo su, quella multi che fa braccia, per la lama muove anche le braccia e poi c'è la ciclette, però non è come andare in palestra, assolutamente, stavo veramente bene, certi esercizi belli, mi seguiva Nico, adesso una rottura, tra pandemia già, una rottura. A me lo stai dicendo, mia figlia ci ha già fatto il biglietto per Natale, ce l'ha fatta dal 23 al 29 il biglietto, e non sa se può venire adesso, perché se chiudono non può venire, quindi immaginati tu, viene solo queste feste comandate, cazzo, almeno vederla in queste feste qua. Lo so già, ma lì mi sembra che ci sia il divieto di spostamento da regione a regione, e poi sicuramente io penso che ci sia il lockdown totale tra poco, perché altre 5 regioni sono passate da zona gialla a zona arancione, quindi sta aumentando. grosso. Se queste cinque regioni, c'è Campania, Puglia, c'è anche la Sicilia, in zona arancione, la gialla prima come la Sardegna, quindi se si passa in zona rossa non si entra e non si esce dalla Sardegna, assolutamente. Claudio, io ti faccio delle domande, come fa a essere in zona gialla questa qua quando abbiamo tutti gli ospedali pieni? In via Pirandello hanno allestito i militari stanno allestendo l'ospedale da campo, cioè immaginati che non ci sono più posti letto e noi siamo nel codice giallo, non riesco a percepirla questa cosa. Si stanno lamentando che non ci sono più posti letto, che ci sono non so quanti contagi al giorno, c'è solo la zona della Lombardia che è peggio di noi, poi noi siamo i secondi. Io non provo a spiegare, io ci vorrei fare da solo, non è a Sassari che siamo oltre il limite, la provincia di Sassari, è chiaro che gli ospedali sono in tilt, la sanità è in tilt, non è che sono i contagi in tilt già, la provincia di Sassari, cioè OCT, Siuri, Ugini, Porcotove, cioè, lascia anche ad Alghero, che stanno arrivando anche ad Alghero, cosa ti posso dire, Proaghe, cioè tutta la provincia di Sassari, tutta la provincia di Sassari, tranne Olbia che si stanno scambiando, la sanità in tilt, capito? E quindi è chiaro che come contagi Sassari è ancora in codice giallo, ma non ci metterà molto ad andare in codice arancione, in codice rosso, capito? È la sanità che è in tilt già, sono gli ospedali che sono in tilt, non è i contagi a Sassari che sono in tilt. Siamo ancora nella media, però è chiaro che se dovesse aumentare si cambierà codice e ci saranno altre restrizioni, tutto qua. Stanno arrivando un bel di gente là fuori, un bel di gente là fuori. L'altro giorno mi diceva proprio Daniele che all'ospedale civile c'erano 16 ambulanze provenienti dalla provincia di Sassari, non da Sassari, dalla provincia di Sassari in attesa di sistemare il paziente. Io ho capito, ma ci sono altri contagi anche a Sassari? Sì, quello lì è già calcolato, il fatto che ce ne siano anche dalla provincia, a parte che gli ospedali sono proprio saturi e non riescono più a ricoverare gente perché non c'hanno più posti. Adesso non so se l'abbiamo fatto, ma ho sentito al televisore che via Pirandello dovevano allestire un ospedale da campo, i militari, proprio dove c'è il parcheggio di via Pirandello. Sì, si parla di quello, ma anche dove sei tu, il convento Osevice, delle suore. Stiamo cercando di racimolare più posti possibile, capito? Tutte i conventi, le cose che ci sono, anche lì a Proaghe, qualcosa che c'è, insomma, un sacco di posti stanno cercando di cosa che dovevano fare prima. Sì, già, non sono contagi diretti, sono asintomatici perché stanno facendo bei tamponi e quindi salgono gli asintomatici, salgono, ma non è che sono contagi uno con l'altro, Sassari, capito? Questo è quello che dicono i medici, questo è quello che dicono i medici. Mia nipote, la figlia mia sorella era 12 anni all'ospedale civile, adesso è all'ospedale civile di Alghero, che è figlio di Sassari, però almeno non viaggia. Sta facendo 13-14 ore al giorno, fatti il conto, per la base di una vita che non vede di figlioli lo marito, è sempre rinchiusa in ospedale. Cosa vuoi ti dica? Infatti quello mi ha detto un altro zio, no, non è un problema di contagi a Sassari e Alghero, è che stanno salendo gli asintomatici, perché i tamponi stanno facendo più tamponi, quindi stanno risultando molte persone asintomatiche. Quindi è chiaro che le devi tenere sotto controllo, non c'è più posto per nessuno, tutto qua. E vabbè. Speriamo bene, cosa vuoi ti dica? Non aggiungo altro, speriamo solo bene che riusciamo ad uscirne. Infatti oggi al Rai 3 hanno detto proprio quello. Abbassano i contagi ma in tilt la sanità, ed è normale che sia in tilt la sanità, perché dovevano organizzare da prima le cose, cercare di tenersi pronti per curare, non per c'è un'inchiesta della Procura della Repubblica per l'apertura delle discoteche in Costa Smeralda, Closet. E lì ne esce male sia il direttore che l'altro, quello sotto il vento, perché hanno voluto l'apertura e sono loro che hanno combinato il casino. E loro facciano i soldi e basta, mica facciano la salute degli altri. No, ma io ieri sono sceso giù col cane e questa signora stava parlando al telefono e le ha detto al figlio, perché si sa che sta parlando col figlio, da fianco a me, e le ha detto, hanno chiuso in divissimi perché ci sono tutti i commessi contagiati, c'è una parte dei commessi di Ruspin che sono stati contagiati, non so quanti negozi stanno chiudendo a Sassi. Contagiati è una parola, sintomatici sono già, sintomatici, è chiaro che se nella tua azienda c'è un sintomatico, via tutti i tamponi per gli altri, è chiaro che subentra la quarantena, ma io all'Eurospice ho un sacco di amici, c'è la Venezia che quando è Carlo Felice stanno lavorando, se poi c'è qualche asintomatico avranno preso le loro precauzioni, ma contagi veri e propri da clientela e da personale non ce n'è già, sono asintomatici, le persone devono imparare anche ad usare le parole giuste, sono asintomatici. E quando c'è un asintomatico in un gruppo come dove eri tu, in un'azienda del genere, è chiaro che l'azienda prende le dovute precauzioni, ma non è che chiude. I negozi che stanno chiudendo già, ne sono i negozi di abbigliamento, i piccoli negozi, perché il commercio è andato sotto zero. Soprattutto il fine settimana che c'è questa restrizione di chiusura e quindi è chiaro che va tutto a casino e lì anche la preoccupazione. Ho visto che anche l'edicola vicino a casa che è storica, che ha chiuso, non c'è più nessuno, sono andato a prendere l'occasione l'altro giorno, che di tanto me lo leggo. C'era chiusa, sono dovuto andare via Prati a comprare. È chiusa anche questa di via La Malfa, e aspetta solo quella di via Ranno Basso, già una settimana chiusa, c'è un cartello chiuso per salute, motivi di salute, quindi già è così, perché anche lì oramai il giornale è andato in a farsi fottere, per non dire altro, perché è chiaro che chi ha internet la mattina c'è la pagina della Nuova Sardegna su internet e se la guarda lì e non esce manco per comprare il giornale più, capito? Quindi questa io c'ho sotto casa, è chiusa lo stesso già, ma è tutto un problema legato alla commercializzazione del giornale stesso, dei quotidiani, delle ricariche telefoniche, delle figurine, di tutto, oramai non occupa legge più nulla da nessuno. È un casino, guarda, è un casino, anche che si deve spostare. Io l'altro giorno non ero anch'io, te l'ho detto, ero cagato sotto, poi mi hanno detto che dovevo far sedere, se non è convivente, questo e quell'altro, di far sedere dietro la persona che ce l'hai ed è il lato opposto. Capito? Per trasportare. Tipo taxi, capito? Puoi sedere solo tua moglie, tua figlia, tuoi figli se vivono con te, nel sedere a fianco a te, se no dietro con la mascherina pure, ma ti vai a andare a accompagnare uno a fare, assolutamente, guarda, lascia perdere, è così, infatti anche l'altro giorno lo stesso è capitato che in un giorno doveva accompagnare un suo amico, dubbio non l'accompagnava. Che arriva da Sita di Busabaredo con la mascherina, ma ti conviene prenderti il pullman e te ne vai da solo, io non ti accompagno. Ehi, basta dire che vivi insieme, cosa c'è? Io ho fatto sedere dietro, sono fatto avanti, vi ho detto di che viviamo insieme e basta, se ci fermi. Che cazzo viviamo insieme? Io non sono macchine, ti chiedo documenti, viviamo insieme, su quale parentela siete insieme? Cioè, già, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti, non ce n'è più di scemi, no? Capito? Lo sto dicendo, io quando mia figlia ha fatto il cambio di domicilio sono andati tre volte, due volte in via San Francesco e una volta a Monteoro, tre volte sono andati a vedere se effettivamente abitava lì. Lo so, si formano da vicinato, anch'io quando ho preso la casa qua, avevo praticamente il mutuo ordinario, no? per pagare il mutuo. Allora ci avevo preso un prestito ordinario, dopodiché sono passato a quello regionale, perché ancora quello regionale non c'era, anche quello ordinario era 14, quello regionale era 9, immaginate se mi conveniva. Poi ho fatto il passaggio, però all'inizio, quando io ho preso la casa, ci ho messo un letto, un tavolo e cose, e praticamente quando sono venuti ho aperto io, e ho detto sì, sono io, gli ho fatto vedere i documenti, tutto qua, punto. E si sono informati anche dal vicinato per vedere se abitavo lì, capito? Lo so, adesso che vede San Francesco mi ha venduto anche l'altra parte, non so se la dove. Infatti l'altro giorno l'ho appeso, è stato un trasloco, tutto, la roba dell'ufficio abbiamo preso mio cognato lì in via Livorno, sono andato a pulire, a fare, quindi anche lì sono arrivati tutti gli arredi, diciamo, quella di via di San Francesco è venduta. E quindi Maria si è trasferita nuovamente, il cambio l'ha fatto nuovamente a Monteoro. E sono andati nuovamente a controllare. Poi siamo in cipare, non è che cucina. Capito? Una volta tu fai il cambio all'anagrafe, ti fai il cambio di residenza, domicilio, non so. Vanno a controllare, perché tu la stai togliendo dal nucleo familiare, capite? Siccome ci sono un bel di truffe, la gente toglie dal nucleo familiare le persone per non pagare meno tasse, no? E poi invece vivono con te, capite? E quindi sono andati a controllare di nuovo anche lì. E lo so, sono abbastanza furbi queste cose. E vabbè, comunque, già è andata, quando è venuta ci ha trovato, e ci siamo fatti trovare noi, perché ci hanno detto più o meno quando venivano, e quindi ci siamo fatti trovare a casa. No, là sono andati all'improvviso, sono andati di mattina, già l'ha trovata, non c'è problema, assolutamente. Infatti detto la posta dove la riceve, qua, quella che arriva con il nuovo cambio di residenza, altrimenti la ricevo da mio padre via la mappa. E hanno segnato tutto, è arrivato un foglio, l'ha fatto firmare, capito? E un bel gente non piace, già. Un bel gente non piace, con questi cambi di domicilio, residenza. Allora oggi compresci, vabbè. Marco! Vabbè, bloccato sì. Ah? Ho detto bloccato ti sì. Ci stavo parlando con te, non hai manco risposto, io sono qua trovando la televisione. No, ha chiamato a Marco, non a me. Ha detto Marco non ti ha risposto. Deve essere sta mangiando, sta pranzando. Sta affogando, ci sta. E fine mi sono comprato, ho chiamato 140 gradi. E c'era mio figlio a casa, ha detto Marco, ce la prendiamo qualche cosa da 140 gradi, prendiamoci le patatine e i calamari. E gli ho detto, i calamari per due persone bastano. Sì, tranquillo, cazzo, mi ha regalato cose di calamari. Va. Manco un pulcino ci mangiava con quei calamari. Ho dovuto fare un altro ordine nella pizzeria sotto casa, che cazzo, non si sono parati nemmeno a la cosa. No, ma guarda, proprio la stessa cosa abbiamo fatto noi. La stessa cosa, perché ne avevamo voglia, abbiamo detto, io ce l'ho qua in via Cosio, in via Carbonazzi, di nuovo. Ce ne vogliono due. Due porzioni già, e una porzione non basta, solo se la parte di bagatto, 2 euro la porzione, 24 euro, sono due cose di alluminio, già ci mangi bene, capito? Però ce ne vogliono due, non una, non ci mangi con una. Allora, a me ci ha dato, comprese con i calamari, anche non ti posso dire un pugno, mezzo pugno di patatine. Poi non erano manco buone, erano cingomusi. Li ho presi sotto casa, se lo sapevo prima, Marco mi ha detto no, li prendiamo a 140 grammi e proviamo lì. Invece li ho presi sotto casa, dopo ne ho preso per vedere, me li ha fatti pagare. pagare 5 euro la porzione, e le porzioni erano 3 volte più grandi. Ed erano croccanti, buoni, come quelli che faceva a suo tempo dove siamo andati noi a mangiarli, i buoni. Te lo ricordi che buoni? Ma con quelli non li ho più mangiati io. Quelli c'erano buoni a vero. Vabbè, c'era Battianino allora. Erano buoni veramente quei calamari, cazzo. Minchia, non ne ho più mangiato così. Una volta a Porto Torres li ho mangiati, croccanti, però come gusto non erano come quelli lì. Allora io lì sono andato perché Agostino, la buon'anima, lavorava al Polo Nord allora e ne riportava lui i calamari e mi ha detto vai lì perché prendono calamari di prima, capito? Ci sono di seconda, ci sono di terza, loro prendevano quelli di prima, capito? È per quello che erano buffi. Si conferma, infatti. Si conferma, calamari se sono buoni va bene, ma se sono cinque musi, poi le patate, la stessa cosa. Se uno è adoperano tutti i patati in busta con le congelate, non servono un cazzo. Vabbè. Già li abbiamo mangiati ieri, già erano buoni, beh, andanti, buoni, buoni posso dire che non sono quelli che abbiamo mangiato al bullying assieme, quelli già erano buoni, questi erano andanti comunque, però ti ripeto, devi prendere due porzioni. Sì, anche a me mi ha mandato una vaschettina di patate fritte assieme alle due porzioni di calamari. Guardi ragazzi, vi guardi, non avevo neanche voglia di mangiare. Vabbè, quando capita che andiamo facciamo la mangiata di calamari fritti come cristiani. Claudio, a costo di mangiarli a casa ti faccio venire qua, se ne mangiamo in ovo. E li prendiamo sotto casa, 5 euro la vaschetta, il doppio di quella dei 140 grammi e sono 3 volte più buoni, quelli croccanti, le patatine te le fa buone lo stesso. Puoi prendere tante cose, cioè fare i volti di primavera, fare tante cose fritte, oltre che fare pizze, capito? E oramai si stanno buttando su altre cose, prima facevano anche la fine, adesso non è stato più facile, ha detto che non li conveni. Sì, addirittura. Aspetta la fine, c'è Giano qua vicino a casa, si fende a poco. L'altro giorno me l'ha mandata buona, veramente buona. A volte la fa buona, a volte non mi piace, non mi piace. Però ne sto prendendo un bel. Solo il problema c'è, questo è il problema di chi viaggia. L'altro giorno oggi mi ha prestato la moto a un ragazzo qua di Carbonattimi, la municipale. E praticamente questi portapizza non sono assicurati, capito? Ti chiamano, ti danno un tanto cartone e tu vai perché ne hai necessità, ma non hai nessun contratto di lavoro. Mi hanno fermato dopo le 10, no? E...